Oltreconfine. Oltreconfine è una selezione di racconti, di storie, di brani tratti da libri che hanno come comune tematica viaggi, frontiere e confini. Le vorremmo introdurre con una citazione di Wu Ming, tratta da New Italian Epic del 2009. Letteratura, sguardo obliquo, ritorno al futuro. La letteratura non deve, non deve mai, non deve mai credersi in pace. La nuova epica italiana non è un movimento di autori, ma un dialogo tra libri. Opere diverse, ma costruite su un comune sentire, una rinnovata fiducia nella parola e nel raccontare, un'etica della narrazione che porta ad unire attitudine pop a ricerca di storie complesse, sguardi obliqui sulla realtà e visioni di mondi alternativi. Buon ascolto. Da Isabella Allende, Lungo petalo di mare. Un racconto di quando nel 1939, all'inizio della Seconda Guerra Mondiale, gli esuli della guerra civile spagnola si rifugiarono in Cile. A fine agosto il Winnipeg arrivò ad Arica, il primo porto nel nord del Cile, un luogo molto diverso dall'idea che i rifugiati avevano di un paese sudamericano. Nessuna giungla lussureggiante o splendide spiagge con palme di cocco. Somigliava più che altro al Sahara. Vennero a sapere che il clima era temperato e che era il luogo abitato più secco del pianeta. Vedevano la costa dal mare e in lontananza una catena di montagne violacee come pennellate d'acquerello che si stagliavano contro un cielo limpido color lavanda. La nave rimase al largo e subito si avvicinò una scialuppa dei funzionari dell'immigrazione e del dipartimento consolare del Ministero degli Affari Esteri, che salirono a bordo. Il capitano mise a disposizione il suo ufficio affinché potessero svolgersi i colloqui con i passeggeri, a cui venivano dati documenti d'identità, i visti e le informazioni sul luogo in cui si sarebbero stabiliti in base alle loro occupazioni. Victor e Roser, con Marcel in braccio, si presentarono nella piccola cabina del capitano, davanti a un giovane funzionario del consolato, Matthias Esager, che apponeva il visto su ogni documento e lo firmava. «Qui c'è scritto che siete stati assegnati alla provincia di Tekla», disse loro. «Indicarvi dove dovreste andare a vivere è una sciocchezza di quelli dell'immigrazione. In Cile esiste la libertà assoluta di movimento. Non fateci caso e andate pure dove preferite». «Lei è basco, signore? Lo dico per il suo cognome», gli chiese Victor. «I miei bisnonni erano baschi. Qui siamo tutti cileni. Benvenuti in Cile». Claudio Magris da L'infinito viaggiare. Il viaggio dunque come persuasione. Forse è soprattutto nei viaggi che ho conosciuto la persuasione, come il possesso presente della propria vita, la capacità di vivere l'attimo, ogni attimo e non solo quelli privilegiati ed eccezionali, senza sacrificarlo al futuro, senza annientarlo nei progetti e nei programmi. Senza considerarlo semplicemente un momento da far passare presto per raggiungere qualcosa d'altro. Quasi sempre nella propria esistenza si hanno troppe ragioni per sperare che essa passi il più rapidamente possibile, che il presente diventi quanto più velocemente futuro, che il domani arrivi quanto prima, perché si attende con ansia il responso del medico, l'inizio delle vacanze, il compimento di un libro, il risultato di un'attività o di un'iniziativa, e così si vive non per vivere, ma per avere già vissuto, per essere più vicini alla morte. Il viaggio incalzante e incalzato, imposto sempre più freneticamente dal lavoro e dalla sua necessaria spettacolarizzazione, specialmente a quel manager di se stesso e dello spirito che è l'intellettuale, è la negazione della persuasione, della sosta, del vagabondare. Assomiglia piuttosto a quella eiaculazione precoce che Joseph Roth attribuisce a Napoleone, il quale non vuol tanto fare all'amore, quanto averlo subito già fatto, sbrigato e liquidato. Il viaggio del conferenziere fra un aeroporto o un albergo e l'altro non è dissimile da questo orgasmo assillato. Ma quando viaggiavo nei vasti paesi danubiani o nei periferici microcosmi, avviandomi in una certa direzione, sempre disponibile a digressioni, soste e deviazioni improvvise, vivevo persuaso, come davanti al mare. Vivevo immerso nel presente, in quella sospensione del tempo che si verifica quando ci si abbandona al suo scorrere lieve e a ciò che reca la vita, come una bottiglia aperta sott'acqua e riempita del fluire delle cose, diceva Goethe viaggiando in Italia. In un viaggio vissuto in tal modo, i luoghi diventano insieme tappe e dimore del cammino della vita, soste fugaci e radici che inducono a sentirsi a casa nel mondo. C'è il viaggio al di là delle colonne d'Ercole e quello minimo di Pickwick alle sorgenti di Hampstead, o quello da una stanza all'altra della propria abitazione, spedizione non meno avventurosa, nemmeno ricca di incanti e di rischi. I capitani fiumani e triestini di lungo corso che attraversavano gli oceani chiamavano beffardamente Capitan de Cadim di Catino, quelli che percorrevano solo piccoli tratti tra Trieste e l'Istria o tra Fiume e le vicine isole del Quarnero. Ma anche in quel golfo la bora provoca tempeste in cui si può naufragare. Pure nei capitoli di questo libro si va agli antipodi, ma anche nei microcosmi dei bisiachi o nei nanocosmi della Ciceria, e il passo del viaggiatore vorrebbe assomigliare all'andatura di Lawrence Stern. Viaggiare sentendosi sempre nello stesso momento, nell'ignoto e a casa, ma sapendo di non avere, di non possedere una casa. Chi viaggia è sempre un randagio, uno straniero, un ospite. Dorme in stanze che prima e dopo di lui albergano sconosciuti. Non possiede il guanciale su cui posa il capo, né il tetto che lo ripara. E così comprende che non si può mai veramente possedere una casa, uno spazio ritagliato nell'infinito dell'universo, ma solo sostarvi per una notte o per tutta la vita, con rispetto e gratitudine. Non per nulla il viaggio è anzitutto un ritorno, e insegna ad abitare più liberamente, più poeticamente la propria casa. Poeticamente abita l'uomo su questa terra, dice un verso di Hölderlin, ma solo se sa, come dice un altro verso, che la salvezza cresce là dove cresce il pericolo. Nel viaggio, ignoti fra gente ignota, si impara in senso forte a essere nessuno. Si capisce concretamente di essere nessuno. Proprio questo permette, in un luogo amato, divenuto quasi fisicamente una parte o un prolungamento della propria persona, di dire, echeggiando Don Chisciotte, «Qui io so chi sono». Continuo la lettura di Lungo petalo di mare di Isabella Allende, un racconto sulla ritirata, gli esuli che partivano dalla Spagna per rifugiarsi, anzi per provare a rifugiarsi in Francia e poi per emigrare in Cile. Il giorno seguente, di mattino presto, arrivò il montanaro che stavano aspettando a dorso di un vecchio cavallo che procedeva lentamente. Si presentò come Angel, a disposizione, e aggiunse che il nome gli calzava a pennello perché era l'angelo dei fuggiaschi e dei disertori. Il montanaro confermò la notizia che già da 2 giorni la Francia aveva chiuso le frontiere e che c'erano centinaia di migliaia di rifugiati bloccati in attesa, mezzi morti di freddo e di fame. Le guardie armate impedivano loro di passare. Assicurò loro che era impossibile raggiungere la Francia senza una guida, perché i francesi avevano predisposto rinforzi a valichi di frontiera e avrebbero dovuto percorrere un itinerario poco battuto, pericoloso in qualsiasi periodo dell'anno, ma specialmente in inverno. Lui lo conosceva bene, perché all'inizio della guerra su quella strada aveva guidato gli uomini delle brigate internazionali. Erano dei bravi ragazzi quegli stranieri, ma molti venivano dalle città e sono morti lungo la strada. Chi rimaneva indietro o cadeva in un precipizio veniva lasciato lì. Si offrì di portarli dall'altra parte del confine e accettò il pagamento in valuta francese. Sua moglie potrà viaggiare sul mio cavallo, noi due a piedi, disse ad Aitor. Camminarono per ore e ore, fradici, al freddo, esausti, sprofondando nella neve. Per lunghi tratti anche Roser procedeva a piedi per dare sollievo al cavallo, che il padrone accudiva come se fosse un parente anziano. Quando iniziò a fare buio, la temperatura scese a un tal punto che riuscivano a malapena a tenere gli occhi aperti a causa della brina che si formava sulle ciglia. Angel indicò uno sperone in lontananza. Era il rifugio di cui aveva parlato. Dopo aver mangiato e nutrito il cavallo, si distesero avvolti nelle coperte sopra la paglia, illuminati dal fuoco. Domani, prima di partire, dobbiamo lasciare questo posto come l'abbiamo trovato. Bisogna tagliare la legna e riempire il secchio di neve. E un'altra cosa, Gudari, non hai bisogno della pistola, puoi dormire tranquillo. Sarò anche un contrabbandiere, ma non sono un assassino, disse Angel. La traversata dei Pirenei verso la Francia durò 3 lunghi giorni e rispettive notti, ma grazie ad Angel non si smarrirono tra le montagne né dovettero mai dormire all'aperto. Ogni giornata finiva in un luogo adatto al pernottamento. La seconda notte si fermarono in una capanna di 2 carbonai con un cane che sembrava un lupo. I 2 uomini che si guadagnavano da vivere accatastando legna per fare carbone erano rozzi e poco ospitali, ma diedero loro alloggio in cambio di denaro. «Occhi a questi 2, Guderì, sono italiani», disse Angel ad Aitor in disparte. Questa informazione diede modo al basco di stabilire un contatto con loro attraverso le 5 o 6 canzoni italiane che conosceva. Una volta dissipati i sospetti iniziali, mangiarono, bevvero e si misero a giocare con un mazzo di carte logore. Roser si rivelò imbattibile. Aveva imparato a giocare al tut e a barare a scuola dalle suore. Gli anfitrioni trovarono la cosa molto divertente e cedettero di buon grado il pezzo di salame secco che avevano scommesso. Roser dormì per terra distesa su alcuni sacchi, con il naso affondato nel duro manto del cane, che si era accucciato di fianco a lei in cerca di calore. Il mattino seguente, salutando i carbonai, diede a ciascuno di loro 3 baci sulle guance, secondo l'usanza, e disse che nemmeno sul letto di piume sarebbe stata più comoda. Il cane li accompagnò per un bel tratto, incollato alle caviglie di Roser. La sera del terzo giorno di marcia, Angel disse che da lì in poi avrebbero dovuto proseguire da soli. Ormai erano al sicuro, era solo questione di scendere. Diede loro un po' di pane e del formaggio, prese i soldi pattuiti e si congedò con un breve abbraccio. «Tua moglie vale oro, Gudari. Abbi cura di lei. Ho guidato su questa via centinaia di uomini, da soldati più esperti a criminali, ma non mi era mai capitato nessuno che tenesse duro senza fiatare come lei e con il pancione che si ritrova per di più». Prima di indicare loro la via per proseguire, regalò a Roser 5 zollette di zucchero, le ultime che aveva, per addolcire il viaggio al bambino. Il gruppo, guidato da Aitor e Roser, intraprese il cammino verso la frontiera. All'imbrunire raggiunsero una cima e dinanzi a loro si aprì la vista improvvisa di alcune case illuminate. Seppero allora di essere arrivati in Francia, perché nessuno in Spagna teneva accese le luci per paura dei bombardamenti aerei. Continuarono la discesa in quella direzione e incrociarono una strada su cui poco dopo apparve una camionetta della polizia, a cui si consegnarono di buon grado perché si trovavano in Francia, la terra della libertà, dell'uguaglianza, della fraternità. I gendarmi li perquisirono in modo brusco e requisirono ad Aitor la pistola, il coltello a serramanico e il poco denaro che gli era rimasto. Poi li condussero in un capannone, il deposito per i cereali di un mulino riadattato per accogliere le centinaia di rifugiati che continuavano ad arrivare. Era pieno zeppo di gente, uomini, donne e bambini, stipati, terrorizzati, affamati, oppressi dalla mancanza di ventilazione e dalla polvere del grano che fluttuava nell'aria. Per placare la sete avevano a disposizione dei bidoni d'acqua, di dubbia purezza. Al posto delle latrine c'erano solamente delle fosse all'esterno del capannone, su cui dovevano accovacciarsi sorvegliati. Le donne piangevano umiliate, mentre le guardie ridevano di loro. Aitor insistette per accompagnare Roser e le guardie, vedendo che con quel pancione era in equilibrio precario, glielo permisero. Poi, ritornati nel deposito, si rannicchiarono in un angolo e si divisero l'ultimo pezzo di pane e il salame secco degli italiani, mentre lui cercava di proteggerla dalla calca e dagli scatti di disperazione che scoppiavano all'improvviso tra i reclusi. Si sparse la voce che quello fosse un luogo di transito e che presto sarebbero stati condotti in un centro di detenzione amministrativa. Nessuno sapeva cosa fosse. Il giorno seguente portarono via le donne e i bambini a bordo di camion militari. Si scatenò il panico tra le famiglie e i gendarmi dovettero separare le persone abbastonate. Rose abbracciò Aitor, lo ringraziò per tutto quello che aveva fatto per lei, lo rassicurò dicendogli che sarebbe stata bene e si diresse tranquilla verso il camion. «Verrò a cercarti, Rose, te lo prometto!» riuscì a gridarle Aitor prima di cadere in ginocchio furioso tra mille imprecazioni.